ulang mar pandang da di tonga boni, ulang mar kusit da di ligi halang, ulang mar pandang da di tonga boni, ulang mar kusit da di ligi halang. Bisa menjadi da salah sangka tu mata nabah, ulang mar pandang da di tonga boni, ulang mar kusit da tandang da di tonga boni, ulang mar kusit da di ligi halang. Bisa menjadi da salah sangka tu mata nabah, ulang mar tandang da di tonga boni, ulang mar kusit da di ligi halang. Tandang da di tonga borni, ulang mar kusit da di ligi halang, ulang mar tandang da di tonga borni, ulang mar kusit da di ligi halang, ulang mar tandang da di tonga borni.